La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al passaggio da monarchia a repubblica in Italia. Due progetti istituzionali, due culture politiche, due fonti di sentimenti e di ispirazione che si affiancano e si contrappongono lungo tutta la storia del nostro paese. Ospite ai nostri microfoni Maurizio Ridolfi, autore insieme a Marina Tesoro del volume Monarchia e Repubblica, istituzioni, culture e rappresentazioni politiche in Italia 1848-1948. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Prima la monarchia, dalla formazione dello Stato unitario fino al referendum costituzionale del 46, con in mezzo il ventennio fascista. Poi la Repubblica, monarchia e Repubblica. Due progetti istituzionali, due culture politiche, due fonti di sentimenti e di ispirazione che si affiancano e si contrappongono lungo tutta la storia del nostro paese, almeno dal Risorgimento fino alla traumatica transizione del secondo dopoguerra e alla costruzione dell'Italia democratica. Un percorso che ci viene riproposto ora da un interessante libro scritto per Mondadori da Maurizio Ridolfi e Marina Tesoro dal titolo Monarchia e Repubblica, istituzioni, culture e rappresentazioni politiche in Italia 1848-1948. Si parte dal Risorgimento, oggetto quest'anno, come sappiamo, di una vera e propria riscoperta da parte degli italiani sull'onda delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità Nazionale, per passare poi all'Italia liberale, all'Italia fascista e infine all'Italia democratica. Nella fase ultima e centrale del Risorgimento, quando l'Italia si riconosce via via come nazione e si fa Stato, l'immagine dell'albero della libertà, con il contorno di altri simboli rivoluzionari, infiamma le menti di ampie minoranze, soprattutto dei giovani cospiratori disposti al sacrificio estremo per la patria repubblicana. Nonostante l'iniziativa della corona piemontese appaia destinata a imporsi, tanto da condurre alla proclamazione del Regno d'Italia, l'opinione repubblicana continua a conservare una sua energia intrinseca, almeno fino al decisivo tornante del 1870. Nell'Italia libera, l'idea di repubblica, coltivata in circoli sempre più ristretti, perde progressivamente fascino e viene rappresentata in una dimensione utopica. La monarchia, con tre sovrani che si succedono nel giro di 20 anni, da Vittorio Emanuele II a Umberto I a Vittorio Emanuele III, si pone come asse portante dell'intero sistema politico-istituzionale. La guerra muta completamente lo scenario politico, sia per la corona che per la Repubblica. Con la caduta del fascismo, il 25 luglio del 1943, la monarchia sembra recuperare credito tra gli italiani, ma durerà poco, pochissimo. Con l'8 settembre del 1943, vale a dire con l'armistizio, si spezza il rapporto di fedeltà alle insegne sabaude e si apre, nel sanguinoso biennio 1943-45, la complessa transizione alla democrazia. La questione istituzionale si colloca al centro del discorso pubblico nel primo anno dopo la liberazione. La campagna elettorale per il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 si svolge in un clima di grande partecipazione emotiva, oltre che politica. Si afferma la Repubblica e la fondazione della democrazia riparte dalla presenza attiva delle donne e dei giovani. E tuttavia la ricostruzione della democrazia repubblicana si alimenta di una complessa e contraddittoria rappresentazione del passato. Le memorie si separano, tanto che per molti aspetti si può parlare oggi di una sorta di guerra della memoria. Le memorie si separano, dicevamo poc'anzi. Ne parliamo proprio con Maurizio Ridolfi, docente di storia contemporanea all'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, che è coautore del volume che ha ispirato il nostro approfondimento odierno. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Allora, memorie separate, celebrazione contrapposta delle varie memorie pubbliche. Partiamo proprio da questo. È inevitabile per un paese che di fatto ha vissuto una guerra civile dopo l'8 settembre del 43? Ma in Italia, come nei paesi laddove c'è stata una frattura nella storia democratica, pensiamo alla Germania, alla Spagna, anche al Portogallo e all'Italia, tanto per stare all'Europa, La ricostruzione di un filo unitario nel discorso sulle memorie è più complicata che altrove. È complicata anche altrove, laddove si esce da una guerra, magari una guerra drammatica, ma quando c'è anche stato una lunga fase di dittatura, di regime, questo è ancora più complicato. Questo come premessa. Dopodiché, in Italia, forse più che altrove, la demonizzazione dell'avversario, della sua storia, della sua cultura, ha influito nell'impedire che le memorie non fossero omogenee, ma che fossero compartecipi, cioè che una non escludesse l'altra. E invece purtroppo è accaduto a lungo così, e ancora qualche cosa, qualche residuo di questo passato rimane, mi pare. Allora, la lettura che voi proponete in questo interessante libro privilegia in qualche modo la dimensione simbolica, anche quella culturale, apre riflessioni anche sul ruolo che ha svolto la corona sabauda nel processo, diciamo, di definizione dell'identità nazionale. Ecco, vogliamo soffermarci su questo aspetto, professor Ridolfi? Sì, io credo che se riusciamo a contaminare i linguaggi e le storie, quindi la storia della Repubblica, della tradizione repubblicana, con la storia della monarchia, della tradizione monarchica e liberale, questa evidenza è più chiara, vale a dire il ruolo importante svolto dalla monarchia, dalla Casa Savoia, dai suoi re, dalle regine ovviamente, spesso le regine più dei re, se posso dire. Bene, questa dimensione è stata un po' occultata da studi che marginalizzavano appunto l'una rispetto all'altra componente della storia nazionale. Noi abbiamo cercato di contaminare queste storie, questi linguaggi, e esatto, di fare un confronto in particolare sulla forza dei simboli, dei rituali, dei colori, delle musiche, e per tutta una lunga fase, fino al primo dopoguerra, ma poi anche dopo, durante il fascismo, se posso dire, la monarchia, la Casa Savoia svolge un ruolo di collante. Il mondo liberale italiano è frammentato, è diviso, personalizzato, regionalizzato, è come se lo stesso mondo liberale ne fosse consapevole e si affidasse al ruolo unificante dei re, dei sovrani di Casa Savoia. E anche durante il fascismo, guardi, certo, in un regime totalitario il duce, il tiranno, il duce ha un ruolo carismatico prevalente, preponderante, ma la figura di Vittorio Emanuele III non è così marginale come a lungo abbiamo pensato. Questo è interessante, perché in genere nella Vulgata si intende quasi, come dire, a raffigurarli insieme, no? Nel giudizio negativo di un ventennio. Storicamente, se noi valutiamo tutto il ventennio, anch'io mi sentirei di dare una valutazione negativa. Certo. E la complicità, se non la sudditanza in momenti decisivi della storia del nostro paese, del re rispetto al duce, è evidente, io credo. Eppure c'è una sorta di competizione simbolico-rituale. Certo, la monarchia, i suoi simboli, i suoi rituali, lo stesso sovrano sono marginalizzati, messi a parte, eppure in certi momenti ritornano, eppure durante tutta la prima parte degli anni venti i rituali dinastici sono presenti nelle piazze pubbliche, eppure anche nel momento dell'impero, il momento più alto, la seconda metà degli anni 30 del regime fascista, il solo fatto che Vittorio Emanuele III sia nominato imperatore gli ridà uno scenario pubblico che forse aveva perduto. E poi il 25 luglio, ovviamente, che rimette almeno per un po', per alcuni mesi, la monarchia e il sovrano al centro della storia d'Italia. Ecco, poi si arriva al referendum costituzionale del 46, gli italiani scelgono la forma repubblicana. Ma ecco, da questo punto di vista c'è una qualche continuità tra monarchia e repubblica? La continuità c'è sempre tra un regime ed un altro, nel senso che le istituzioni si rinnovano, hanno valori di fondamento, di riferimento nuovi, ma c'è anche una grande continuità e alcuni dei meccanismi del potere vengono ribaditi. cambia ovviamente l'orizzonte democratico, la partecipazione, le libertà politiche, le libertà civili. Il problema vero, la sfida vera fu per la classe dirigente repubblicana quella di creare un autonomo corredo, diciamo, simbolico, rituale che rafforzasse l'immagine della Repubblica. E qui abbiamo cercato di approfondire l'argomento, perché l'argomento tra gli studiosi di storia è molto controverso, diciamo così. E da questo punto di vista la Repubblica è riuscita a mettere su uno strumentario sufficientemente valido e accattivante anche? Guardi, l'impressione è che la Repubblica sia riuscita a metterlo in piedi, questo apparato, questo corredo di simboli e di rituali. Fino a che punto sia risultato efficiente, come in altre realtà europee o non europee, la Francia, gli Stati Uniti, eccetera, questo è oggetto ancora di riflessione. Generalmente i miei colleghi ritengono che si sia trattato di un apparato in fondo debole, non efficiente, fino al punto da diventare, da costruire un immaginario nazionale repubblicano. Eppure la classe dirigente repubblicana il tema se lo pose, si impegnò su questo piano, certo, non più con la retorica, l'enfasi, il patriottismo, nazionalismo che si ereditava dal fascismo, questo ovviamente no. Però il problema, la sfida ci fu tutta, i risultati non sempre sono stati positivi, dobbiamo essere sinceri, ma la sfida fu colta dalla classe dirigente che usciva dal fascismo.